TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Massima allerta a Udine per il corteo pro-Palestina e per la partita Italia-Israele di questa sera allo stadio Friuli. Udine blindata, imponenti le misure di sicurezza necessarie, secondo gli udinesi. Il delitto di Gemona, non solo la compagna ma anche la madre di Alessandro Venier, Lorena, si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina nel carcere del Coroneo. Si attendono i risultati delle perizie dell'autopsia. In Friuli Venezia Giulia, nonostante il calo dei tassi di interesse, a giugno i prestiti alle piccole imprese sono calati e anche il ricorso alle garanzie Confidi diventa difficoltoso. L'allarme di Confartigianato regionale, il comparto è fortemente penalizzato. In Electrolux sospesi in anticipo i contratti di solidarietà originariamente previsti fino alla fine dell'anno, in questo momento non sono necessari. Volumi invariati, ma si cerca un accordo per gestire un aumento di produzione su alcune linee. Al via oggi in regione la campagna vaccinale contro l'influenza, vaccino che si può fare anche in contemporanea a quello contro il Covid, che è raccomandato, offerto gratuitamente alle persone più a rischio. Dalla tutela della risorsa acqua alla fruizione in chiave turistica fino alla sicurezza idraulica, firmato poco fa a Pordenone il contratto di Fiume Noncello. Ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio a Udine. E dunque il giorno di Italia-Israele, match classificato ad altissimo rischio. La partita questa sera allo stadio Friuli, il cui accesso è completamente interdetto sin dalla più esterna delle aree del parcheggio. Le forze dell'ordine hanno trasformato la zona in un presidio blindato. Si entra soltanto dopo rigidi controlli antiterrorismo. Misure di sicurezza eccezionali anche per il corteo pro-Palestina previsto questo pomeriggio, previsti almeno 10.000 partecipanti. Subito un aggiornamento da Sebastiano Franco. Buongiorno. Udine è una città oggi semideserta, stato di massima allerta sia allo stadio dove da giorni ormai ci sono le strutture antiterrorismo, la zona di prefiltraggio, ma soprattutto anche all'albergo in centro in Viale Ledra dove alloggia la nazionale israeliana. Qui sono posizionati sui tetti che circondano questo albergo i cecchini, la zona è sorvolata dagli elicotteri delle forze dell'ordine. Preoccupa il corteo naturalmente che partirà alle 17.30 da Piazza della Repubblica e si concluderà in piazza Primo Maggio. Preoccupa anche perché il corteo si concluderà a 500 metri circa proprio dall'albergo dove alloggia la nazionale israeliana e quindi c'è il timore di tensioni, che qualcuno possa staccarsi da questo corteo per cercare di raggiungere l'albergo. La partita invece inizierà alle 20.45, obbligo per l'Italia quello di dover vincere per garantirsi almeno l'accesso ai playoff per poi giocarsi la qualificazione per i mondiali. Udine, Sebastiano Franco, a voi. In centro, nelle zone interessate dal corteo, ma anche in quelle più vive durante il giorno, pochissima gente, tra gli udinesi più rassegnazione che preoccupazione. Il servizio non è ancora pronto, intanto anche la chiesa udinese organizza iniziative per costruire la pace, a cominciare dalle preghiere. Questo pomeriggio alle 18 nella rinnovata chiesa di Santa Maria in Castello l'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba presiderà una veglia. Sappiamo che la pace è un dono di Dio, afferma lo stesso arcivescovo. È stato significativo che Papa Leone abbia iniziato il suo ministero pubblico augurando la pace di Cristo risorto. La pace nasce da Lui e dobbiamo implorarla continuamente nella preghiera. Di questo dobbiamo essere consapevoli, altrimenti rischiamo di partire dal punto sbagliato. Il Santo Padre ha invitato tutte le realtà ecclesiali a pregare per la pace, in modo speciale in questo mese di ottobre per intercessione della Beata Vergine Maria. Durante la preghiera si darà lettura di una testimonianza del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. E ora è pronto il servizio sui commenti degli udinesi, che sono più rassegnati che preoccupati da questa intensa giornata. Una Udine spettrale, con poca gente in giro e ancora meno che abbia voglia di parlare. Una città che avrebbe fatto volentieri a meno di partita e manifestazione. Era necessaria questa partita a Udine? Direi di no, anche per le attività commerciali. Non vedi qualche deserto? Sembra di essere in periodo Covid. Tombale oggi. Cioè vedo... sono uscito un attimo e vedo deserto, no? Siete preoccupati per questa manifestazione oppure pensa che alla fine non succederà nulla? Ma in realtà non c'è nessuna preoccupazione, più che altro siamo un po' Abbattuti, perché vediamo una città deserta e quindi questa partita non ha portato a nulla se non una competizione sportiva poi declinata in qualcos'altro, evidentemente. Più che preoccupazione c'è rassegnazione. Non vedere più i tavolini, non vedere niente, vedere tutto vuoto, sì. Forza dell'ordine, comunque quello ci dà sicurezza, tranquillità, quello sì. Tanta gente da fuori e tanta polizia però indurrà più di qualcuno a rinunciare ad uscire. Cosa vuole che le dica? Starò a casa. Non è preoccupato. Sono preoccupato dei provocatori. Tra i giovani, anche tra chi andrà a manifestare pacificamente, c'è però anche fiducia. Io sinceramente non sono preoccupata per la manifestazione, nel senso che noi andremo a lezione, c'è chi dopo le lezioni va a protestare. Hanno detto che sarà una cosa in grande, però sinceramente io sono abbastanza tranquilla. Del resto si fa notare, l'anno scorso non successe nulla, grazie alle misure definite necessarie. Secondo me sono giuste, secondo me non bisogna sottovalutare. Sei preoccupata che Udine possa diventare anche teatro di scontri? Sono comunque abbastanza tranquilla, anche perché non è la prima volta che fronteggiamo con queste situazioni qua, anche l'anno scorso, insomma, è stato tutto gestito bene. Udine, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il delitto di Gemona con la cronaca giudiziaria, perché questa mattina si è svolto l'interrogatorio della madre della vittima, Lorena Venier, accusata di aver ucciso il figlio Alessandro. Intanto si attendono i risultati delle perizie e dell'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte. Dopo Mailin anche Lorena decide di tacere. Questa mattina nel carcere del Coroneo davanti al magistrato Giorgio Milillo la donna indagata per aver ucciso e tagliato a pezzi il figlio insieme alla nuora si avvalsa della facoltà di non rispondere. Più che una nuova linea difensiva, spiegano gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, una sua decisione. In questo momento non se la sente, sta metabolizzando, come potete immaginare, è molto molto molto fragile. Molto fragile e molto compromessa, e quindi ha detto il magistrato: sì, non vorrei dire magari delle cose imprecise che in questo momento non ricordo, ho bisogno delle mie riflessioni. Ma quanto conta nella decisione, chiediamo, il fatto che la compagna del figlio Mailin Castro Monsalvo abbia scelto da subito il silenzio? La nuora vive una situazione altrettanto compromessa, con dei precedenti specifici, quindi è comprensibile lo stato di prostrazione, ma sono, non so come dire, due personalità, ognuna con le proprie caratteristiche, insomma. Una linea difensiva, dicono i legali, solo apparentemente nuova. L'abdicazione, ecco, del precedente legale ha comportato la scelta di altri professionisti che vanno dal medico legale, che vanno dal consulente psicologico-psichiatrico, che vanno dal tecnico informatico, e tutti soggetti che entrano in questo procedimento e devono prendere contezza e atto di quello che è stato fatto. Ora si attendono i risultati delle perizie in corso, ma soprattutto dell'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Alessandro Venier è morto soffocato con i lacci delle scarpe o è morto per i farmaci con i quali era stato stordito? Saperlo ovviamente orienterà la difesa, che per scongiurare il carcere a vita per Lorena punta però soprattutto a illuminare il contesto in cui è maturato il delitto, ponendo questo tra i primi interrogativi. Cosa avrebbe potuto fare Alessandro se non fosse stato fermato? Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, da nuvoloso a coperto sul resto della regione. Le temperature registrate alle 11, a Udine 19 gradi, a Trieste Gorizia 18,5, a Pordenone 17, a Tolmezzo 14, a Tarvisio 11,5, a Forni di Sopra 11, a Piancavallo e Sappada 9, sul Monte Zoncolan 5, sul Monte Lussari 3,5 gradi, a Grado e Lignano 19 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma maggiore nuvolosità sulla zona montana. Nelle prossime ore non si esclude del tutto qualche breve e debole pioggia sulla zona montana occidentale. Sulla costa soffierà borino o bora moderata, specie dalla sera. In Electrolux, contratti di solidarietà sospesi a partire dal 18 ottobre, mentre giovedì un nuovo confronto tra azienda, RSU e segreterie provinciali delle organizzazioni sindacati affronterà il tema dell'organizzazione del lavoro, che deve far fronte alla necessità di un aumento della produzione su alcune linee, pur a volumi invariati. Ci illustra la situazione il segretario provinciale della FIM CISL, Gianni Piccinin. Ieri abbiamo sottoscritto un accordo dove abbiamo sospeso i contratti di solidarietà perché l'azienda ha necessità di produrre di più con tutto l'organico, diciamo, di fabbrica. Noi abbiamo sottoscritto a gennaio 2025 appunto 10 mesi di contratti di solidarietà che sono partiti il 17 marzo 2025 e dovevano terminare il 9 gennaio del 2026. L'azienda ci ha comunicato che nonostante i volumi non siano aumentati, perché il budget del 2025 comunque rimane 712 mila pezzi, c'è un mix diverso dove c'è una richiesta del mercato di un prodotto di una fascia leggermente più bassa rispetto, diciamo, alla nuova lavatrice che l'azienda sta puntando, e quindi ha un po' i magazzini scarichi e quindi intende, diciamo, avere l'organico tutto in azienda per poter produrre. Giovedì c'è un nuovo incontro sull'organizzazione del lavoro. Quali sono i temi sul tavolo? L'azienda ha necessità di fare anche dei sabati di straordinario. In alternativa rimane comunque le possibili assunzioni e quindi noi giovedì dovremmo in qualche maniera sviscerare questi due temi. Da parte sindacale c'è comunque una preoccupazione, capiamo che se c'è necessità di lavorare di più lo faremo, però c'è un'organizzazione del lavoro che oggi ci dice non ci sono volumi in più, però ci sono tutta una serie di inefficienze legate all'organizzazione del lavoro che oggi non ci fa produrre quanti prodotti dovremmo produrre al giorno. Questa fabbrica dal mese di marzo è passata a lavorare a giornata, lavorano tutte le 5 linee a giornata dalle 7 alle 4, noi invece pensiamo che per dare una risposta a questa necessità si valuti anche la possibilità di lavorare nelle 2 linee dove ci sono questi pezzi da fare nuovi a turno. Non escludiamo comunque la possibilità anche dello straordinario, come non escludiamo la possibilità di avere dei contratti a termine. Si è di fronte a un sistema creditizio che in larga parte non è più pensato per far crescere le realtà produttive, almeno ancor meno quelle che muovono i primi passi. Tendenzialmente si prestano soldi a chi ne ha, così il rischio di impresa si riduce. Sono le considerazioni che il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, matura di fronte all'aggiornamento sull'andamento del credito per le aziende artigiane e le piccole imprese, riassunti dal rapporto congiunturale redatto a ottobre dal Sistema Confederale Nazionale degli Artigiani. In Friuli Venezia Giulia, nonostante il calo dei tassi di interesse, a giugno i prestiti alle piccole imprese sono calati del 7,2% su base annua, in linea con la media nazionale, ma con una diminuzione molto più forte rispetto al calo del credito al totale delle imprese, che ha ceduto solo dell'1,4%. Scivolata ancora più importante per i prestiti alle quasi società artigiane, ovvero alle società di persone e imprese individuali con più di 6 addetti, che sono diminuiti del 10,7%. In pratica, sottolinea il Focus, il comparto artigiano rimane particolarmente penalizzato, con una riduzione del credito di 8 volte superiore alla media delle imprese italiane. E anche il ricorso alle garanzie Confidi diventa difficoltoso in presenza di una normativa sempre più stringente degli organi di vigilanza, osserva il segretario regionale di Confartigianato Enrico Eva, con il rischio di un'economia privata di un necessario slancio vitale. Così la selettività nella concessione di credito, cresciuta negli anni, ha finito anche per scoraggiare le imprese anche solo a richiedere un prestito, prosegue Tilatti. Infatti oggi per la vita di un'impresa può essere rischioso persino aver ottenuto un diniego da una banca, non solo non essere riusciti a onorare una rata di mutuo, inoltre, soprattutto per chi opera come terzista, vi è il rischio di non rispettare qualche scadenza solo perché l'azienda più grande non salda le fatture nei tempi dovuti. Firmato questa mattina a Trieste un accordo per il coordinamento regionale della polizia locale. Il comando della Polizia Locale di Trieste assume il coordinamento regionale degli interventi operativi nei casi in cui ci sia bisogno di potenziare le unità locali, oppure ancora quando sarà necessario attivare i nuclei specialistici non sempre presenti in tutti i comuni. Lo prevede l'accordo, il primo a livello nazionale, è appena firmato a Trieste con la Regione Friuli Venezia Giulia, che garantisce un finanziamento di 30.000 euro che permetterà non solo di programmare e organizzare meglio la sicurezza per i grandi eventi, ma anche di mettere a disposizione il personale nei comuni più piccoli e i nuclei specialistici. Il prossimo passo, è stato ribadito, è il concorso unico. L'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Ogni anno si faranno un elenco di attività su richiesta dei comuni interessati che verrà presentata alla Regione e la Regione sosterrà i costi relativi. Questo appunto per garantire che ogni cittadino, a prescindere che abiti da un comune piccolo e un comune molto grande, possa usufruire di servizi adeguati e di una sicurezza adeguata sul proprio territorio. Il 25% del personale della Polizia Locale della Regione fa capo al Comando di Trieste, l'unico ad avere una sala operativa aperta H24 e che dispone di diversi nuclei specialistici, come ci spiega il comandante Walter Milocchi. Unità cinofila come Pordenone e Udine, controlli sull'autotrasporto come anche altri comuni come Monfalcone, nuclei specialistici a disposizione di tutti i comuni, anche quelli più piccoli, che naturalmente certe specializzazioni non può permettersele per una questione numerica, anche se in regione ci sono sicuramente delle realtà come la Carnia che sono molto avanti su parecchi aspetti, compreso il nucleo contrasto violenza di genere, in cui stanno operando assolutamente bene. Trieste, Vacciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. Oggi in Regione inizia la campagna vaccinale contro l'influenza, vaccino che si può fare anche in contemporanea con quello contro il Covid. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione, la nostra trasmissione del mattino. Febbre alta, tosse e dolori muscolari. I sintomi sono sempre simili, ma ogni anno è difficile prevedere come sarà l'influenza stagionale. Per proteggersi è disponibile il vaccino, raccomandato e offerto gratuitamente a partire da oggi in Friuli Venezia Giulia alle persone più a rischio di andare incontro a complicanze. Ariella Breda, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina. Sono le persone che hanno più di 60 anni, i bambini piccoli, le donne in gravidanza, qualsiasi trimestre di gravidanza e soprattutto le persone con patologie croniche che possono essere il cardiopatico, il pneumatico, omopatico piuttosto che il diabetico. E poi non dimentichiamo anche le persone che sono a contatto, i caregiver, che si prendono cura delle persone malate. Il vaccino è raccomandato anche per i lavoratori delle categorie di pubblica utilità, come sanitari, forze dell'ordine o insegnanti. I dettagli sono indicati sulla circolare del Ministero della Salute diffusa a luglio, con le raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell'influenza. La campagna prevede due vaccini, quello contro l'influenza e contro il Covid, che si possono fare contemporaneamente. Ci si può recare per l'antinfluenzale dal proprio medico di base o al pediatra di libera scelta, piuttosto che ai centri vaccinali dell'azienda sanitaria, prendendo l'appuntamento come di consueto per tutte le altre vaccinazioni, e non dimentichiamo anche presso le farmacie. Nell'ultima stagione le sindromi influenzali hanno colpito il 27,7% degli italiani. Anche quest'anno ci si aspetta una circolazione sostenuta dei virus. Guardando all'Australia, all'emisfero australe, che è quello che diciamo ci dà un po' l'indicazione di quello che potrà essere, sembra essere una stagione impegnativa. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora spostiamoci a Pordenone per la firma del contratto di Fiume Noncello, che segna l'inizio di un percorso di realizzazione di importanti attività sul territorio in ambiti ambientali, sociali e di sicurezza idraulica. Più di 2 anni di percorso partecipato e 36 sottoscrittori, tra cui 3 comuni, Pordenone, Porcia e Cordenons, Regione, autorità di bacino, enti e associazioni, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare insieme la risorsa. Oggi nella sala consiliare del comune capoluogo la firma ufficiale del contratto di Fiume Noncello, evento che segna la conclusione della fase di progettazione e l'inizio della realizzazione delle attività sul territorio. In ambito ambientale, di sicurezza idraulica, ma anche turistico-culturale. L'assessore alle politiche ambientali del Comune di Pordenone, Mattia Tirelli. Noi chiaramente abbiamo portato già in Consiglio Comunale un pacchetto di azioni concrete di promozione e sviluppo dell'ambito fluviale del Noncello, che partono dalla tutela della risorsa acqua fino alla sua fruizione, quindi la fruizione anche in chiave turistica. Il contratto di Fiume Noncello è il primo contratto all'interno di una capitale della cultura e in più anche c'è il tema della sicurezza idraulica, che è fondamentale in una città come Pordenone, che è molto soggetta a dei problemi e dei rilievi di natura idraulica. Tra le azioni concrete, la realizzazione dell'Ecomuseo del Noncello nell'area ex Tomadini a ridosso delle antiche mura cittadine, della rete parco, parchi e delle ciclovie fluviali, ma anche di opere di difesa idraulica come il sovralzo dell'argine sinistro del fiume. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dal fiume Noncello alla Val Rosandra, la riserva ha una segnaletica completamente rinnovata e al passo con i tempi digitali. Nel servizio anche l'intervista all'assessore al comune di San Dorligo, Luciana Depolo. Non capita spesso che a 15 chilometri da una città di 200.000 abitanti vi sia una riserva naturale. La presenza di un patrimonio naturalistico da preservare e valorizzare è generalmente lontano dalle realtà urbane importanti. Ma Trieste, città di scontri e incontri di culture, anche in questo fa eccezione e può vantarsi di avere alle proprie spalle appunto la riserva naturale della Val Rosandra, raggiungibile dal centro cittadino con la ciclabile. Una riserva che offre panorami mozzafiato, ma è anche luogo di nidificazione di rapaci e animali altrimenti non presenti sul territorio. È sospesa com'è tra il clima continentale del Carso e l'Adriatico, è ricchissima di biodiversità e anche di storia. Fatti scontati forse per coloro che frequentano questi luoghi quotidianamente, ma non per chi ci arriva per la prima volta o per quanti si concedono il privilegio, più che mai raro nell'epoca digitale, di lasciarsi condurre dalla curiosità e dal caso. Un patrimonio che ora è evidenziato e segnalato con la nuova segnaletica, con 7 tabelle poste alle vie di accesso principali della riserva e altre 4 tabelle che indicano e spiegano i luoghi speciali della riserva, come per esempio la ghiacciaia, la stazione ferroviaria, il castello di Mocò e l'acquedotto romano. Tutte con spiegazioni in italiano, sloveno e inglese. Tabelle finanziate in buona parte con i fondi europei del progetto Interreg and Green. Il nostro territorio è pieno di tesori culturali, naturalistici ed è importante, no, l'informazione e la consapevolezza di chi li percorre, perché dall'informazione e la consapevolezza poi nasce il rispetto, perché si sa il valore del luogo che si sta guardando. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un grande risultato per Riccardo Brunetta, studente del liceo scientifico Leopardi Maiorana di Pordenone, che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica svoltesi a Mumbai in India lo scorso agosto. L'edizione ha visto la partecipazione di oltre 320 studenti da 64 paesi e l'Italia ha partecipato per la prima volta con una delegazione di studenti dalla terza alla quinta superiore. Un debutto subito coronato da 3 bronzi, tra cui quello di Riccardo. Riccardo è stato infatti 5 volte campione italiano di astronomia, ha vinto il bronzo alle Olimpiadi internazionali di astronomia nel 2022 e nel 2024 ha aggiunto un'altra medaglia di bronzo alle Olimpiadi nazionali di matematica. Negli stessi anni si è messo in evidenza anche nella fisica, conquistando la fascia d'argento regionale ai campionati italiani di fisica nel 2024 e la fascia d'oro nel 2025. Il livello della gara era molto elevato, spiega Riccardo, ma ciò che è prevalso non è stato tanto la competizione, quanto lo spirito di condivisione e il piacere di confrontarsi con altri giovani appassionati. E conclude: il principale e più importante risultato di questa esperienza è stato proprio quello di conoscere persone da tutto il mondo. Torniamo sul match di stasera Italia-Israele, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, che si giocherà stasera a Udine davanti a circa 10.000 spettatori. Poco fa il commento del CT della Nazionale Gattuso ai microfoni di Rai Sport: giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino, ha detto, sta bene, può aiutarci a gara in corso. E sugli spettatori, questi 10.000, ha spiegato Gattuso, valgono come fossero 40.000. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore. Dobbiamo tornare a essere l'Italia. Non siamo mai stati più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo con la forza e la volontà e l'unità di intenti, ha concluso il CT. Prima di salutarvi, un avviso: il giornale radio di questo pomeriggio andrà in onda anticipatamente, non alle 18.30 ma alle 18.05, per lasciare spazio alla radiocronaca della partita di calcio Italia-Armenia Under 21. Ed è tutto. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica e regia Marco Ferrito e Caterina Cabrelli. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.